avanti. Vi state soprammodulando con Savvidi. Ehi, ma è NFM, capito? È NFM. Ok Vicenza, non ho copiato il tuo nominativo, qua al nord di Sardegna, sperando che mi ascolti, ma penso che non ci siano problemi, anche perché il tuo segnale è ottimo. In FM, perché Savelli è andato in FM sul 10, lo si ricompre. Poi però abbiamo un QSO locale in AM, se ti fa piacere scendere in AM e fare due passaggi non ci sono problemi, perché la ruota qua in Città di Sassari è in AM, ok? Io ti saluto Gianni da Vicenza, contraccambio il tutto, il tuo segnale è 95910 e Radio 5. Niente, a risentirci, se vuoi scendere in AM ci trovi di lì, c'è un quartiere locale, penso che tutti ti ascoltano. Ma io ti ho chiamato Franco. Dai, siamo in AM e ti mando avanti per gli amici, che c'è una ruota qua in Città di Sassari. Ragazzi, l'amico Franco è andato in FM, non so perché, però arriva benissimo, quindi penso che arrivi benissimo anche qua in AM. Dai, che io vi sto ascoltando qua, però siccome avevo capito che era in FM, sono andato a chiamarlo, ok? Gianni, avanti per te, prova a chiamarlo. Ehi, attenzione Vicenza, se ascolti l'operatore doppio rum della città di Sassari, che ti supercordializza, avanti. Vieni avanti Franco, ti ha chiamato Gianni, è un amico che si trova in BM, in barra mobile. Nardo, dai, sei copiato il Nardo da Vicenza, Sassari tutta voi. Troppo bailame. Saverio è un lieve innesco. Ascolti l'amico di Vicenza, Franco. Saverio è un pre-innesco. Sì, allora baciamo, ora è troppa amplificazione. Guardate un po' se va bene ora. Così, dai, però si capisce. Ehi, dai, devo passare i watt di ingresso, dai. Sto pilotando con troppi watt, devo passare i watt. Attenzione, Vicenza! Ce n'è andato. Avanti, Franco, Franco da Vicenza. Ci ascolti ancora qua, l'isola Santa. Io ero in AM come se fosse in AM. E lui era in FM, te lo immagini, chiaro, chiaro. Deve essere che va a watt a go-go. Sta aprendo molti colpi. Una alla volta. Sulla tripla 5 è un caos. Ma davvero sul 45? No, era a 27.555 la frequenza di chiamata. Però li devi sapere in inglese, se no nisba. Guarda, io so dire solo 165 Sardinia Island Italy calling, standing by. Bella! Solo che poi ti rispondono in 50 e non ci comprano di nulla. E non è buccia di giocano. U59 Sardinia calling, QSL. Italy calling, spaghetti, mandolino, Berlusconi, bunga bunga. E pizza napoletana. Gava gava e gava gava. Over. Casiniti. Ciao Giulio. Ciao, continuate. ciao Giulio, buonasera, ben sentito. Vediamo un po' un attimino di nuovo. Franco, ci ascolti qua da Pavia, se non l'ho errato. Ci sei ancora, batti un colpo. Kappa Rosa, dai, qua Nord Italia, Franco, dai. Perché c'è un po' di splatteri io dalla parte della Germania, ecco, perché diciamo sono ormai, insomma, dai. Ho diversi splatteramenti da essere. Ecco qui, vai tutto per te, mi sembra aver capito il nominativo tuo Antonio, e poi intanto salutando anche la ruota, dai, qui 73, e una buona giornata. Dai, negativo Franco, Saverio in città di Sassari, e comunque io non ho problemi ad ascoltarti. Il tuo segnale oscilla, a volte arrivi anche 9+10, quindi non ci sono problemi. Adesso ti rilancio gli amici. Vedi avanti, dai, una alla volta ci ascoltate l'amico Franco in Pavia. Attenzione Franco, delle coordinate di Vicenza, se non sbaglio. Qua un'altra stazione sempre da Sassari in Nord Sardegna, operatore Gianni, non so se copi, avanti. Hai ascoltato Gianni in città di Sassari? Negativo da parte mia, negativo. Giustamente tra il 6, ma non riesco a tirarlo fuori. Provo io. No, va. Allora, copi Marco da Sassari, vediamo un po' se riesco a passare i vicini tedeschi che splatterano, avanti. A quanto pare no. Franco, qua ti stanno chiamando un po' tutti, Vediamo un po' se riesci a copiare Giulio, in coordinate in zona vicino, prossimo al mare. Giulio, vieni avanti, se ascolti a Franco, in zona Pavia o Vicenza, adesso non mi ricordo bene, mi sto confondendo le idee. Avanti Giulio. Ciao, sono solo con un watt, dunque non è possibile. Non mi sente perché sono solamente con un watt, ci sentiamo. Chiediglielo tu se mi ha sentito, ma non può sentire comunque, dai. Ma tu riesci a tirarlo fuori a Franco, l'hai sentito Franco? Sì, lo sento benissimo, Santiago 9 quasi, per cui la radio 5, perfetta, non c'è problema. Qua arriva un segnale 9-10, io qua con un quarto d'onda. Cerco di... ascoltare, ascolto a tutti, la verità è. Poi il problema è mio, cercare di farmi sentire, ma ho visto che quando do qualche mattino già mi ascoltano, dai. Aspetta, provo io. Attenzione Franco di Vicenza, se ascolti qua, Natalino Alfa 1 dalla città di Sassari. Avanti ancora a te Franco, K. Sembra crollata la propagazione. Oh ragazzi, mi state deludendo, No, ma prima abbiamo beccato Vicenza, l'altra cos'era? Cremona, che cavolo città era? Due stazioni forti tipo queste, forse era lo stesso, solo che adesso si sta allungando e stanno entrando, dice, tedeschi, e per loro è un problema perché ce li hanno di confine anche, a seconda di dove sono. Infatti, poi io ho 4 watt solo dell'apparato omologato, quindi non posso pretendere. Lineare non ne ho, se no mi sarei fatto sentire anche io. Anche qua siamo lisci. Ciao Giulio, buonasera. Ho provato a fare chiamata io, ma chissà tutto l'aburotto che c'è sopra. Crocro. E poi Gianni, tu ci hai parlato con lui quando è entrato prima. Era sempre lo stesso. Ehi, positivo. Sì, vabbè, dai. I misteri della propagation. Poi avanti Saverio. Sul canale 25 trasmettono anche in FT8. Sì, e chi ce l'ha? Saranno apparecchiature amatoriali e il computer annesso e connesso. Canale 25. Lo so, ci vuole il programma, questo, quell'altro, ma vaffanculo. A me le trasmissioni digitali non mi piacciono più, mi piace più la fonia. Ma tu avevi abbandonato quel programma per decodificare modi digitali? Sì, io c'avevo tutto. Parlavo con la Polonia, sempre con un sacco di gente. Però col computer non è mai come parlare a voce. Beh sì, la fonia è la fonia, poi c'è chi preferisce l'altro, E tutti con questo cavolo di modi digitali sono adesso. C'avevo anche l'interfaccia, tutto c'avevo, per il 440, dovrei averci in campagna, quegli attrezzi lì. Via Gianni, mi. Spostato di nuovo, uccel di posto. Avanti, avanti. Beh, signori, io me ne passo in quel rettile, ci sentiamo alle prossime, da. Via, ciao Natali, ciao. Ciao Natali. Stava che mi sono occupato un chilometro, se ne sono stiando. Per ora rimango qua, dai. Vediamo come si evolve la situazione. Siamo io e Marco, poi c'è anche Salvedio, magari si è spostato nel canale più sopra, dai. Chi? Era va, intendo a me, mi ha detto, magari si è spostato nel canale di su. Ma chi, io? Affermativo. No, negativo, allora sono su, praticamente sono con Fabietto, un amico mio, che ci sta ricevendo con un apparecchio che ha preso, nuovo, però non può trasmettere, e ci sta ascoltando, quindi mi sono spostato i due canali per fargli un passaggio, capito? Sentivo l'amico di Vicenza, sente a tutti voi, e mi stava dicendo che io li stavo arrivando più forti di tutti, tutto qua. E sono ritornato subito, ero qua su 10 in ascolto, però sto messaggiando con lui su WhatsApp. Ehi, bene meda. Natalino ha chiuso, c'era Cristian un po' di tempo fa, però vabbè. Direzione Porto Torres, l'abbiamo perso, dai. E ciccia. Com'era Marco? 165 Sardinia, Italy. Calling, standing by. Oh già, poco fa ti ho fatto un interrogativo e non mi hai risposto. Che tipo di antenna vuoi ordinare, 5 ottavi? 5/8. Sì, ma di che marca? Quando la compro già te lo dico, dai. Preferisco tenerti in sospeso, dai. Ma questi misteri. No, vabbè, dai, è così, giusto, niente di trascendentale. Carichiamo la postpay nei prossimi giorni e ci ce l'hai, così ci leviamo il pensiero. Mamma mia. Babà. Ho fatto una carrellata sul 21 i veneti che parlano tutti davanti de Drio, i tedeschi sul 9 a 9:15. Wow. Sì, ma quelli in banda laterale? No, FM AM, quelli in banda laterale non li conto, sono ancora più forti. Eia, io una banda sopra, verso il canale quasi a fine della banda sul 34, una banda sopra in banda D praticamente, 27, adesso non mi ricordo perché comunque io qua alla parecchio non so il frequenzimetro, ma in banda laterale mi stavano arrivando 9:20, ero pure al locale, erano almeno 7-8 persone, li ho chiamati, mi hanno risposto subito immediatamente. Ci vorrebbe un'antenna orizzontale per fare una chiamata più direzionale, più selettiva, in modo da escludere altre stazioni, capito? Cioè se ti interessa il nord, lo punti lì, il centro, il sud, eccetera. È tutto un caos comunque, c'è un po' di tutto, c'è mezza Italia e mezza Europa e anche oltre. Faccio una spazzolata veloce, esce a vedere. Ma guardate sul 9, i tedeschi in FM sul 9, guardate i segnali. Chi è rimasto vivo? Io sono sempre qua, quel Rick si ascolto, sono sempre qua. Purtroppo la propagazione come si vuole non c'è mai, c'è quella bella di calma relativa con segnali che però arrivano a bomba, ma quando è troppo, poi c'è troppo fading, sale e scende, troppo QSB, passano da 9:15 a 0, certi, come certi tedeschi sul 9, proprio fino a 9:15 poi scende a 0, poi risale, poi scende. Confermo, è tutto un ambulotto, mamma mia. Su 45 c'è un bordello proprio, sono tutti i gatti, uno sopra l'altro, ma provi a chiamare non ce la fai, di lì è proprio questione di prepotenza, capito come ti funziona? Se io metto 95 sopra il tetto, ci metto anche 300 watt passano, 300 watt e cominciano a risponderti, a manca a destra, da una parte all'altra, capito? Però già con un quarto d'onda, con una bumera e 100 watt in antenna, dove la vai? Quelli pompano kilowatt, cioè stiamo parlando, il più morto di fame c'è un kilowatt sotto, mi ragazzi, cioè non so se li avete visti, questi sono proprio fanatici da paura. Sì, avevo visto i B1200 accoppiati, addirittura un'auto costruito da 4 kW. Su YouTube l'avevo visto, per i camionisti, roba non illegale di più. L'hai visto anche tu quella cosa? Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, una spesa di 5-6 mila euro. Ma poi devi aggiungere un alternatore in più, cioè ti devi modificare tutto l'impianto elettrico del camion per riuscire ad alimentare quelle bestie. Sì, batteria go go, cioè va, roba avanti. Ho capito che loro vivono in camion e quello che è, ma secondo te mi posso giocare tredicesima, quattordicesima, uno stipendio, per che cosa? Per fare un impianto megagalattico in modo che quando c'è la propagazione sul 45 passo io. Cioè, pensa che la mentalità è vanimi. Lì è troppo burottosa, perché sembra che tutti chiamino ma quasi nessuno risponde, perché si parlano sull'altro, uno sull'altro. Troppi eco, troppi brutti finali, come li vuoi chiamare, dai. Una boccaria. Sì, ma non è neanche questione di eco, di cosa, perché comunque anche io ce l'ho avuta la radio con le concorde e cose. Può essere anche bella in certi momenti, capito? Poi se siamo di notte, stiamo facendo un questione locale e cosa, ne sa chi tutto, e sì, liscio, la radio tranquilla, normale, pulita. È proprio il discorso che è una questione, non so se vi siete accorti, io sono tanti anni comunque che l'ascolto, il 45, è proprio una questione di prepotenza. Chi è più forte, chi digita più la propagazione, passa, ok, e ti rispondono, ma per il resto è tutto un bordello. Adesso c'è qualcuno che ci chiama, non si compare se è Venezuelano o di Platamona. È incredibile, da io qua su lì ci sento dal 9 questo CCC e sono quelli in FM, i tedeschi in FM. mi stanno splatterando dalla Germania. sì, no, ma anche quelli su 45. Allora, permettendo, io non so che apparecchio stai utilizzando tu, ok? Io sto utilizzando un vecchio Jackson, però il Jackson posso garantire che manca una buona fama. E non è così facile a prendere i colpi il Jackson. Oh, vado sul 47 e sento quelli del 45, non mi sblatterò neanche gli amici qua in zona del Monte Rosello, ok? Ci siamo. Cosa vuol dire? Arriviamo alla conclusione che quando si bombendi 2 kW e mandi un sacco di spurie anche in propagazione, mi sblatteri, ok? Eh sì. È così, si conferma, un dato di fatto. Perché ripeto, ho tanti amici qua in zona, vicino, c'è Luca, ci sono tante, c'è, vabbè, Franco, lasciamo prendere Franco ce l'ho a 30 metri, quindi ci mancherebbe che non mi sblatterassi lui, ma è una cosa normale, stiamo parlando di due antenne che si vedono a 40 metri di distanza, ok? Ma se parliamo di una persona che si trova a Napoli e io ti sto ascoltando in propagazione su 45, mi sposto di due canali e ti ascolto, che sembri diventato, non sembri più in AM, sembri in FM. Cosa è? C'è un problema, ma il problema non è il mio, il problema è il suo. Vediamo un po' chi c'è rimasto. Natalino, ci sei? Natalino ha chiuso. C'era Gianni? C'era Gianni, l'abbiamo posteggiato. Gianni sta chiamando sul 9. C'è Deutschland, non German. Giro Deutschland già. Babà, tutti sul 9 adesso, me. Adesso provo a spostarmi sul 9 a vedere questi tedeschi in FM se mi sentono. Soltanto che come li chiamo? In sassarese. Provo a spostarmi io, vediamo un po' cosa succede, dai. Ascoltare un po' che la brutta. Dai, che c'è anche c'è un amico mio che non può trasmettere perché non ha antenna adeguata. Ascoltare da 0 a 30, ok? Quindi ci ascolterà senz'altro. Io ci sto messaggiando su WhatsApp. È un amico mio. Dai, vediamo sul 9 cosa dicono questi tedeschi. Tu ne sei mai da tedesco? Negativo, io mi sto spostando sul 9, esci a vedere, dai. Ho provato a dire con l'accento, brecco brecco. Oh, ho risposto con un brecco brecco. Mi ha risposto, avanti brecco brecco. Ciao, saluto. Ciao da Massore. Sì, copiato al 100, la tua è una ottima stazione, io non parlo English. Tu parli italiano? Parli italiano, amico mio? Non parla italiano, l'amico nostro non parla italiano. Mi ha ascoltato, però non capisce l'italiano e io non capisco la tua lingua. Mi dispiace, non possiamo dialogare. Tango Kilo 08, I hope do you copy Whiskey Lima 55 in this moment. I am very sorry, my friend, but so many stations here, see, so many. I can't copy you in this moment. I wait a few seconds, a minute, and we will see. Perhaps non capisci tu la faccia. Once more on the frequency. Ok, io ti ascolto fortissimo, ti ascolto fortissimo, ma non capisco pochissimo in English, poco. Tuo segnale 9+10 radio 5, come te la posso dire, va fortissimo. Half was negative from your signal. Non occupa un cazzo italiano. Many stations here on the frequency in this moment. I thank you for the short contact, okay? Wish you 73 for you and your family, and many greetings here from Bavaria, Germany, to Kent, near London, okay? It's okay? Sta parlando con un altro. No, ha detto Italy siamo noi, vabbè, non lo so, probabile. Ma l'Italia non si intende nessuno. Double five for returning. Ma arrivi una usirata, 9+10 è qua, ma c'è una radio stereofonica proprio. Super Radio 5. Ok, but many station here on the frequency in this moment, George. Ma riesco a passarlo o non lo passo? Sì. Family? Ah, no, è perché ero sganciato. Non me ne ero mai accorto, ero sganciato. Io ti credo, mi ti invia. We Tango Kilo 08, George is good. Praticamente stava dicendo troppe stazioni, ti ringrazio per il collegamento, 7351, bla bla bla. Prima aveva chiesto se si poteva cambiare frequenza, credo. Sta parlando in inglese comunque. Sì. Allora, ho fatto me. Attention Italy, do you copy me? Lima 55 Germany. Attento Germania. Attento Italia. Whiskey Lima. Alemania stazione. Cambio. Avanti. Alemania stazione, Whiskey Lima. Io ti copio al 100, sperando che tu ascolti qua. Papa Alfa. Nord Sardegna, città di Sassari. Avanti, QSL. Sì, io ho postazione in dopo, wieder. Ja, also die letzte, wo sie jetzt gesagt hat, das war brutal. Nein, Blutzene und der Radio super unwahrscheinlich. Der Italiener hat da aber geschrien, der hat da voll wiederholt, hat er gehört. Avanti. Kann er leider nicht mehr hören, weißt, weil jetzt bin ich da, weil da die Blutzene, das ist ein... Azione geniali. Frecu, da ist er mit Zürich geschmettert. Ja, mindestens 7-8 Minuten mit Zürich gekriegt. Haben wir Boris gekriegt, der hat ein bisschen Boris genannt. Und hier... Gisio, ich bin bei dir, es kommt nicht um ein Cent, oder? Ja, so gelacht, oder doch? Nein, aber das ist jetzt auch gut gegangen. Du, tut Kaiserslautern... Dann bestimmt. Ma di Tedesco non se ne capisce una mazza, eh. Davon da. Weil mein Auto fährt ungefähr 700 fast. Attento, attento, attento, se ascolti qua Italia, Italia, Isola Sardegna, Isola Sardegna, spaghetti e pizza, pizza napoletana, cambio. Attento, attento, amico, amico di Germany, Germany, ascolti qua la stazione Papa Tango che chiama QSL. Jetzt kannst du Pizza hören. Jetzt habe ich das schon, aber ist nicht. Ascolti, buccia di gioca qua. Am Mikrofon ist die Whisky Lima 55. Eigentlich der Sergio. Ist eigentlich mein Call da. Du musst aber nicht mal die Testa. Ja, QRX. E doppio rum, dove è finito? Io già ci sono, ma se non mi fate entrare... Potresti tu tenere in call center? No, già, sai cos'è? C'era una portante pure. Sì, la portante era 95, il tedesco era 910. Ehi già, questi parlano il tedesco, non si comprende una mazza. Ma infatti, che stiamo a fare qua? Andiamo su 10 normali, magari con entrare al 3. A te, 9-10, e la radio è Super 5. Im Hintergrund ist noch die Stadt. Quanto vi arriva a voi? Der Josef, vielleicht kannst du das mit dem dann auch. Aspetta, adesso sta calando. 9-10, 9-15 massimo. Anche qua, anche qua, è una bomba, eh. C'è una radio, quando arrivo a Pulito proprio c'è una radio omicidiale. Allora, ma a proposito, io in FM come esco? Benissimo. Io? Sì, si comporta bene, eh? La radio è buona o è brutta? No, no, no, è buona la radio. Come deve essere in FM, non deve essere sparata. Ok, ok, anche la tua, eh? Buona, ottima radio. Una telefonata. Avanti, so fare una UV, muore. Ah, mal reden mit ihm, dann gebe ich schneller mal das Mikrofon an Josef. Also gut, bis so ein Mikrofon, boh, der Rest, Ja, ich kann es gibt mit der Röcke. Un attimo di stand-by da parte mia, Io le faccio in AM, dai. Ok, ci vediamo in AM fra poco. Santiago, hoppe, voi. Sì, sì, così è uno sfinimento a cercare di farci capire da questi, poi va bene, sì, io ho anche le orecchie velutate, tutto, non sento, ho le orecchie forate di prosciutto, sono tutto intasato, sono ancora, il profeta. Il Niagara, mi, quello soda caustica, mi, quello con l'acqua bollente, stura tutto. Io non sono riuscito a scoprire, e praticamente me l'ha stasato la pan. Ma di tipo chimico? È un acido, bisogna con le mani coperte. Sì, sì, il Niagara era così, lo usava nonno, il Niagara di una volta, praticamente mettevi questa polvere, questa granella nello scarico, mettevi l'acqua bollente in fretta con uno straccio bagnato, dovevi tappare perché sentivi la forza della reazione chimica, se ti schizza negli occhi guai, però sturava tutto, però il problema già che questa roba colora i tubi, diciamo alla lunga, se lo usi troppo spesso, dai. Devi buttare subito la qualcosa, se non corrode, pulisce, come butti la qualcosa la fa scorrere, quindi non c'è tempo di corrodere. Certo che se tu lo fai di giorno, è normale, però io uso, credo che una volta ho chiamato l'idraulico perché si è tasato il lavandino, ha messo l'atmosfera a 9, non riuscito. riusciva a stasarlo, mi ha fatto pagare 90 euro lo stesso per l'intervento. Poi ho preso, gli ho messo questo prodotto qua che mi aveva consigliato un amico che fa l'idraulico, sono andato, l'ho comprato, ho messo questo prodotto, in me che non si dà se sto tutto stasato. Ehi, dimmi il nome, io lo cerco. Il telefono è sparito. Dimmi il nome già. Si chiama Ferrari. Eia, vediamo se è simile. Di solito credo che sia non un acido, ma una base. È tipo idrossido di sodio, soda caustica. Non so cosa sia perché non l'ho mai letto, però mi ha detto questo amico mio che idraulico, stai molto attento quando lo metti perché praticamente ti brucia le mani se non stai attento. Gianni, io ho difficoltà a sentirti, ci sono i tedeschi che ti stanno schiacciando. Ma io adesso sono in mezzo ai palazzi, capito? Sto aspettando la mia moglie e sono in mezzo ai palazzi. Ogni tanto supera anche il 9, figurati. Ma sono in effetto, Eia. Proviamo a cambiare canale, cosa dici? Boh, aspettiamo che rientri Marco, che sennò poi non ci trova. Io a poco fa ho tirato, sono andato su 25, 26, c'è la propaganda da tutte le parti. Ho parlato con un po' di posti, là. Calabria, con la Calabria, con poi un'altra città che non mi ricordo che mi hanno detto, non mi ricordo come si chiama, Portofino, insomma, diversi posti. No, io ho provato a girare, ma c'è un aburotto, troppo aburotto, quando è così è un casino. E aspetta che vado a casa, poi già non mi passano più. Adesso sto aspettando un attimino, vediamo un po'. Sì, sì, c'è questo in particolare che è il più forte di tutti, però deve avere qualcosa sotto. Beh, magari hanno anche la zona buona, chi lo sa, la propagazione che li favorisce. Marco. Sì, io. Mi ascolti sempre bene tu. Credo che tu sia a fondo scala pure. No, ma sono in mezzo ai palazzi adesso, è un casino. Pensavo che non mi ascoltassi molto forte, invece la zona è buona. Sì, sì, 9, aspetta, sono tutto intasato. 9.25 oltre. Cavagava. Mi sono preso uno spavento, ci accende il baracchino, non si sentiva né QRM, rimaneva la portante inserita, tolgo il microfono e rimaneva sempre la portante inserita. Indovina cos'era, io se indovini, stavo già per smontarne tutto. Vediamo un po', ma la portante era una vera portante o lo smitter che saliva, aspetta, cosa poteva essere? Portante inserita, senza microfono. L'apparato era in FM, praticamente modulavano in AM e la portante rimaneva inserita quando mi arrivava a fondo scala, invece era qualcuno forte, dai. E poi scendeva e dopo di nuovo rimaneva inserita, non capivo cosa era, ho provato il piede, ho provato tutto, ho smontato quella plastica dell'antenna, guarda, un casino, non riuscivo a capire cos'era, poi alla fine ho buttato l'occhio sul baracchino, tacca, era in FM. la portante era veramente in trasmissione l'apparato o era la ricezione dei segnali forti? Era la ricezione in AM, sicuramente c'era qualcuno che stava parlando e lo sentivo in FM, capito? Sì, yeah. Qua sono misteri gloriosi. Gioia, tutto questo voluto mi ha fatto venire mal di testa, porca miseria. E poi non si riesce a fare nulla anche, troppo ciabotto. Non hai sentito che stai dicendo QRX su Wash? Che se ne vadano loro in QRX? Tre ore, QRX, QRX, QRX. Achtung Germany, QRX per favore. Ehi, probabilmente i colpi li stanno prendendo anche loro, io sono pure attaccato. Sta bruciando il mio apparecchio da quanto ce l'ha acceso, è caldo, no, l'ho bruciato, dai, però è caldo. Questo è il più forte, mi. Spero un secondo. Sogna Burotto. Oia. Profetta c'è ancora. Eia, mi passano? No, assolutamente. Però ce n'è uno di questi che sicuramente anche loro pigliano colpi, Non ne ho molti, ma 50 sono. Ce n'è uno che schicca forte, ve lo laghetto dello strumento, tum! Questo. Bisognerebbe sapere il tedesco di lì, ma con tutti i rigali nei viso proprio non che già hai capito. Eia. Il mal di testa mi è venuto, ok? Sì, veramente, anche a me. Vabbè, il mio il mal di testa già da freddore, però. Sai come si fa comunque? Cioè, se uno vuole tentare fare VeriDX, chiama sulla 555 e poi si sposta. Quando sento la stazione riceve, oppure chiama e dice chi vuol chiamare, che ne so, 27 580 590, capito? Vai lì, ti sintonizzi, chi ha sentito la chiamata è interessato, ti risponde, ci fai il rapporto di segnale, vabbè, tutti così sono i VX. 5-9 politico poi. No, perché certi danno 5-9 a tutti, è anche un po' in ambito amatoriale. Si dà quasi anche su le 5-5, c'è la 5-9 per fare tutti felici e contenti. Eia. Oia, non tira un filo d'aria, ragazzi, mamma mia. Mi sa che stacco, Marco, dai. Mi sta scoppiando la testa. Oh, io ho bisogno di un po' di silenzio. Eia già, io per quello vado a pigliarmi un Neo Optalidon. Vedrai che passerà ogni male. Ci sentiamo, dai. Ciao. Buona serata a tutti. Saluto anche Gianni se l'ascolto, Saverio, non mi ricordo nemmeno chi più c'era, Giulio, tutti quelli ascolto io. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Ciao Giulio, ciao. Dai, QRT anche per me, dai. Rimposo un po' le orecchie, che tutto questo frastuono mi ha rincoglionito, dai. Buona serata a tutti, ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao. Ciao a tutti, ciao. Che questi crucchi me li hanno rotti. Vado a pigliarmi un come si chiama per il mal di testa, con la pastiglietta Neoptalidon. Anch'io ho mal di testa più che altro per il raffreddore anche. Ho bisogno di silenzio anch'io per un attimo. Tanto qua non si batte chiodo. E oggi vabbè, c'è la festa della Repubblica, abbiamo fatto cacciara oggi, dai. Tanto il tempo va passato. Ciao già, buona serata, ciao. Ciao, ciao, buona serata, ti chiamo. Ciao Marco, dai, chiudo anche io e sto tornando a casa adesso. C'è rimasto qualcuno sul 10? No, c'è più nessuno sul binario 10? Schönes Wochenende, bleibt gesund. Jo, Christian, das Leben ist hart. Hey. Leben ist hart, was du nicht. Ja, ich wollte jetzt ein bisschen hetzig sein, jetzt sind wir da immer umgeschissen, so duschen. Und vielleicht eher noch später. Passt schon, gell, weil sonst komme ich da nicht weg. Bis später, Julius. Tschüss dabei. Okay. Bodirine. So wie die, mit viel Gemüse drinnen, mit viel Fleisch, du. Schmeckt bitte etwas tödlich einbrennt. Servus! Guten Abend, Nedala Alpha Juliet from Sud-East Austria. 30 Kilometer north from Yugoslavia border, Hungaria border. My name is Julius, back to you. Che barba, che noia. Chi è, chi è? Qualcuno all'ascolto? Qualcuno all'ascolto? Tutti boccheggiando, ogni aggaccio. Ciao Gianni, tu sei? Chi è con la tremata sotto? La tremata sotto? Ciao, sono Franco da Sorso. Boh, sentivo un zio sotto. Boh. Se no non te l'avrei detto. Mi sembra che adesso sia tutto a posto. No, è cosa di propagazione, lo fa anche quando stai modulando tu. Ah, che mi si aggrega altra gente, così è. Disturbi e quant'altro. Lo fa, dai. Noia. Allora sì, a casa. Positivo. Sì, sono rientrato poco fa. Sembra sì, basso come segnale. Sembrava più alto prima. Boh, non ci tocca di nulla. La radio è sempre quella. la potenza è sempre quella, non riscontro altri problemi, dai. Il K, no, niente. È probabilmente la cosa del QRM. È probabile. Non si è sentito nessuno? Tutti boccheggiando, ogni aggaggio. È caldo, cioè, infatti io sono qua, fuori vicino alla terrazza, e un po' di arietta sta entrando. Oh, yeah. Anche fuori, ero, sono rientrato poco fa, non si muoveva foglia, proprio caldo, umido, brisante, tutta appiccica. Oh, yeah. Infatti è così. Qui ci sono tedeschi, che i tedeschi arrivano a bomba, in FM, a bomba, loro che non capiscono niente di italiano. Già le abbiamo sentite questo pomeriggio con Marco e chi c'era? Marco, Gianni, altra gente, abbiamo provato a bussare ma non ci fanno entrare, vabbè. 9.10, 9.20, cazzo, una fusilata. Il bello che in alcune situazioni proprio avevamo difficoltà a sentirci tra noi, figurati. Ehi, capo. No, ma a me mi hanno fatto entrare, solo che loro non capivano a me, io non capivo a loro. Alla fine li ho mollati. Vabbè. Se non c'è il minimo di comprendonio, cosa... Non si combina nulla. Ma è entrato qualcuno nel frattempo? Io ho acceso adesso. No, non ho sentito nessuno. Vabbè, dai. Tutti boccheggiando. Vabbè. Io ho entrato così, ho buttato l'amo per vedere se si sentiva qualcuno e sei sbucato tu. Va bene, dai, fra, ti saluto, dai. Non mi trattengo. Dai. Buona serata e ci sentiamo prossimamente, a più presto, ok? Ok, ciao Gianni, ce la riascoltiamo, dai, buon proseguo di serata. Andare, esci che spara un colpo di finestre. Ciao, fra, buona serata. Ciao.